Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Romanisti di più. Non mi meraviglierei se la Roma si lottasse fino al 90esimo della partita di ritorno, il 95esimo, il passaggio del turno. E non mi meraviglierei se poi a passarlo fosse proprio questa squadra. Forza Roma, forza Rubi, questa è l'ora di mostrare quanto valemo. Io sono molto fiducioso, domani se il mister mi sceglie per andare in campo darò il massimo e spero che aiuto la mia squadra a prendere un risultato positivo. Mezzo rosso, per il tifoso romanista, dei tifosi è sempre più. Secondo me abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, naturalmente ci vogliono conferme. E questa è sicuramente la partita più adatta per vedere se poi noi siamo sulla strada giusta. Stiamo sulla strada giusta. Insomma, aspettiamo questa sera, grande fiducia per la Roma e i romanisti che finalmente andranno allo stadio, 60.000 le presenze annunciate. Un grande onore avere con me il mio maestro Marino Bartoletti. Ciao Marino. Benché vivente. E cui voglio chiedere pubblicamente scusa per venia, anzi per tutti gli strafalcioni musicali che ho fatto e che continuerò a fare. No, guarda, invece ti trovo bravissimo e maturatissimo rispetto a quel ragazzino che quanti anni fa? 16? E facciamo di più. Insomma, dal 99, bene, dal 99 a oggi facciamo quasi 17. Il signor Guibaffi ha esaminato, controllato, rivoltato e ha pensato che fosse degno di lavorare a Radio 24. Io sono molto orgoglioso di te. Ma finiti i salamelecchi, di che parliamo? Parliamo di come hai visto questa edizione di Sanremo. Beh, tanto per cominciare, chi ha vinto è un monito importante per la Roma, è un giorno, mi dirai. Anche presto, se possibile, prima che un giorno. L'ho vista col piacere di sempre, con la gioia di sempre, direi anche con l'entusiasmo di sempre, nei momenti in cui, facendo un tifo da ultra in prima fila, cosa che i VIP inquadrati non dovrebbero mai fare, ho visto che davano il premio al mio Gaetano Curreri. Beh, sì, sì. Sono salito sul palco, ho fatto delle cose scomposte che non facevo da molto tempo. Abbiamo apprezzato moltissimo, sarà san dire, Marino. Grande incertezza sull'incastro calcistico per la giornata finale, come ben sai. Alla fine lo spettacolo del festival è forse stato migliore rispetto a quello di Torino, almeno fino al gol di Zaza. Lasciami Guarda, essere cattivo. Parli con uno dei non tanti italiani che non hanno visto quella partita, effettivamente, anche se molti di noi erano entrati con le radioline o con la declinazione contemporanea delle radioline per sapere come andavano le partite, come Fantozzi la partita, come Fantozzi la corazza da Potemkin. In realtà non arrivavano notizie della partita, c'è stato un piccolo brusio soltanto quando si è saputo del gol in extremis della Juventus. Comunque guarda, il Festival di Sanremo sembrava veramente il campionato all'inizio di quest'anno, cioè una manifestazione senza favoriti acclarati, no? Vero. Poi mentre il campionato effettivamente ha trovato un suo assestamento, beh, a Civicchia, al Festival ha vinto un outsider, anche se è la canzone che io ho preferito fin dal primo momento, che ho urlato di preferire fin dal primo momento, intanto per l'amore profondo nei confronti di Stadio, di Curreri, di quello che rappresenta per i suoi rapporti con Vasco, con Dalla, con la grande musica italiana, e poi perché si è ripetuto un pochino l'effetto Roberto Vecchioni, cioè il grande artista e nello stesso tempo anche il grande autore che si presenta a Sanremo e tutti dicono ma figuriamoci, chi vuoi che lo capisca, ci sono i talenti, il televoto, eccetera, eccetera, ha messo in fila tutti. Sì. Frotti di ragazzini battendo ragazzi di 20 anni o poco più di lui, quindi vedi che ogni tanto Dio guarda anche a Sanremo. Certo, no? Ma io credo non solo ogni tanto, io credo tutte le volte, o quantomeno magari non Dio, ma tutta l'Italia. Guarda, quando vince tutta l'Italia, se almeno il 50% della popolazione televisiva censita, dicono i numeri, poi guai a come dire, confondere la quantità con la qualità, però insomma questo è stato un festival decisamente molto importante nel quale chiunque di noi ha trovato un momento, due o tre, nel quale riconoscersi. Se poi uno si vuole tenere nel cuore Curreri, se lo tiene come, ma uno può anche scegliere Ezio Bosso, o Bolle che canta il rock dei Queen, o Virgilio Raffaele. Insomma, mi sembra che non sia mancato lo spettacolo, perché se la colpa di Conte è quella di aver messo d'accordo tutti, perché ho letto anche questo, beh, insomma, allora viva le colpe. Senti, Marino Bartoletti, sai chi ho qui davanti a me che ho rapito? No. Enrico Ruggeri. Buongiorno. Ma Enrico, in quanto collega di Radio 24, collega, cioè, umile neofita della radio di Radio 24, ero qua. È il tuo indegno traino, mi sembra, no? Indegno traino, esatto. Come va? Scusa? Oh, no, niente, era un come va, convenevoli. Come va? Come va? Va bene, perché come te in qualche modo sono stato presente a Sanremo. No, mi sai bene visto. Che ho gioito per te, perché sì, c'è un abbraccio dei primi giorni che per quanto mi riguarda fra me e te che mi resta nel cuore, poi insomma sai cosa penso di te. Sì, poi sei l'unico che mi batte nelle gare di rimembranze degli Sanremo storici. Però vado forte, però. E questo lo sai benissimo, che sei il primo che hai fatto vincere un rock a Sanremo. Sì, è lui. Cioè, mi vanto, il rock arrivò sul podio nel 1961, quindi ai confini della contemporaneità con 24.000 baci. Esatto. E noi ci abbiamo messo un po' più di tempo per capire che poteva anche vincere a Sanremo. È vero. Senti, dai, Marino, dai una speranza calcistica a Enrico Ruggeri, che poi lo lasciamo andare a lavorare. Quella è dura, Devo dire che è una speranza comune, oppure devo vivere ancora nel mistero. Sì, gliela do la speranza, certamente gliela do. Dai. Cioè, quest'anno era un campionato, l'ho detto prima, che poteva essere da wild card. Sì. Poi ci sono stati degli assestamenti che alla fine hanno, come dire, selezionato effettivamente i valori in campo. Però mi sembra che il terzo posto sia ancora assolutamente free, bisognerebbe darsi una smossettina. Sì, non ci sono state mezze misure, perché è evidente che l'Inter non poteva sostenere il ruolo di squadra pigliatutto delle prime sei giornate che vinceva, ma mi sembra altrettanto evidente che in questo momento sia in una posizione che la penalizza un po' troppo. Credo che l'Inter dovrebbe essere una squadra che lotta per il terzo posto, magari da ruoli un attimo più predominanti. Al grido del primo amore non si scorda mai. Il primo amore non si... sì, poi nel calcio... L'illusione per chi ama l'Inter era che si diceva, beh, insomma, se giocando così, nel momento in cui stiamo ancora assemblando la squadra, stiamo in testa alla classifica, certo, e vinciamo tutte le domeniche. Io sottolineai quei giorni che a chi con un po' di puzza sotto il naso diceva, vabbè, l'Inter vince sempre 1-0, beh, fatto una rapida ricerca, danno tre punti anche per l'1-0, sinceramente. Esatto. Sono rimasti. Poi certe cose, certe amalgame non sono più accadute. E Jovetic è stato un po' come Yoko Ono nei Beatles. È un ottimo esempio. Senti, io lascio andare Enrico Ruggeri a volare con il Falco e il Gabbiano, che sentiremo più tardi. E mi tengo Marino Bartoletti ancora un abbraccio, Marino. Ci rimetti. E saluto Pier Pardo che arriva. Ma sì, ma non mi puoi mandare via Ruggeri? Sono 5 minuti che lo ascolto. Cioè, ma come è stato possibile arrivare quarti? Adesso, sinceramente, non me ne voglio gli amici interisti, ma la canzone di Ruggeri, che era forse la canzone più rock di Sanremo. Togliamo il forse, non volevo anche rispettare gli altri. Comunque è arrivata quarta su 20. Adesso l'Inter di Mancini è meglio o peggio della tua canzone di Sanremo? Beh, lì insomma è un po' più complessa la situazione, anche perché il festival dà una serie di prove d'appello, no? Poi ci sono le vendite dei dischi, i biglietti dei concerti, c'è il tempo, e quindi in realtà puoi vincere a distanza. Qui il campionato a maggio è finito e si ricomincia la e chi sta vincendo i suoi due scudetti in carriera li ha vinti appunto. Due scudetti li ha vinti. Ma quando brandire l'asta del microfono quest'anno saremmo capito che poteva andare lontano. L'ha tradito il televoto, però sarebbe arrivato tranquillamente terzo. Invece chi sta vincendo il campionato degli scarichi, delle vendite? Io direi Ruggeri, Clementino, giusto? Ma dipende. Io sono messo bene anche lì nel campionato degli sbigliettamenti ai concerti e in quello delle vendite fisiche, perché io ho un pubblico più da vendite fisiche, certo. E sono in zona UEFA, diciamo, nelle vendite digitali, che sono più consone a pubblico giovane e meno fidelizzato. Chi altro ti è piaciuto? Dovendo dare un consiglio oltre a te di una canzone di Sanremo da scaricare? Ma vado nella cantera e quindi dico Ermal Meta e Gabbani, il ragazzo che ha vinto. Bravo. Ok. Grazie Rico. Arrivederci. Grazie, traffico. Ciao, un abbraccio. State lì Pierluigi e Marino Bartoletti. Tutti convocati. Tutti convocati. All'8:00:24:00:24, tutti convocati naturalmente. Io volevo utilizzare Marino Bartoletti, utilizzare una parola che non mi piace, ma volevo nominare Marino Bartoletti a giudice di una diatriba, l'ultima volta, che c'è tra me e Pardo sulla partita. Salutare Pardo, ciao Pierluigi. Ciao Marino, come sei? T'ho visto a Sanremo, bello come il sole, veramente. Ti ho molto invidiato, perché deve essere una cosa di una bellezza star lì, Ti consiglio di viverla quell'esperienza, prima o poi. Poi si corrono dei rischi, come quando Virginia Raffaele ti viene sulle ginocchia, non so mai cosa può succedere, però abbiamo vissuto esperienze più ci sono anche rischi peggiori, voglio dire. Anche rischi peggiori, sì. Quando va detto toccami, io mi sono schermito, ha detto allora ti tocco io mi sono ritratto, mi ha detto allora toccati tu, sai. Però posso dire una cosa da persona che non lavora in Rai, che è veramente da telespettatore. È stato bellissimo, cioè Carlo Conti è un fenomeno assoluto, secondo me, di misura, di capacità, e lo dimostra soprattutto a Sanremo, poi magari io gli altri programmi li guardo meno, ma a Sanremo sia l'anno scorso che quest'anno ha dimostrato veramente di avere una marcia in più. E poi, Virginia strepitosa, le canzoni comunque belle, brutte, no, mediamente comunque... di buon livello, è veramente, mi sono divertito, ho twittato molto, ma come facevate a fare Sanremo prima di Twitter? Perché non era la stessa cosa, come facevate? Invece forse era anche più bello, perché stavamo più attenti, non ci distraevamo, come è accaduto poi anche per motivi calcistici sabato sera. In realtà poi io ero molto concentrato sul festival. Tu pensa che hanno fatto la scaletta diabolicamente, assecondando in qualche modo quella che era la tempistica di Juventus-Napoli. Clementino all'intervallo, zero, no? Renato Zero l'hanno messo alla fine di quelle che potevano essere le prime interviste, in modo da riesplodere col festival. Senti Marino, volevo chiederti un'interpretazione autentica di questa disquisizione che c'è tra me e Pardo, nonostante la partita tu l'abbia intuita, ma penso possa essere abbastanza. No, poi l'ho rivista. Non avevo dubbi. Io continuo a pensare che per il Napoli sia stata un'occasione sprecata, quella di Torino. Pierluigi non è d'accordo con me, dice che comunque il Napoli ha giocato da Napoli da grande squadra. Io credo che se Bonucci non avesse fatto quel miracolo, quella partita prendeva una direzione diversa, che probabilmente era quella che sognava in qualche modo anche Sarri. Detto che a questo punto il campionato resta apertissimissimo, perché è chiaro che ci stava che la Juventus batteva il Napoli in casa, mentre sarebbe stato piuttosto importante se il Napoli avesse battuto la Juventus ai fini di una classifica virtuale e forse inimmaginabile all'inizio del campionato. Insomma, in parole povere, io credo che il Napoli una piccola buona occasione l'abbia buttata via, però è anche vero che quella giornata, quella partita, quella serata hanno dimostrato che il Napoli non ha nulla da invidiare alla Juventus. No, il Napoli non ha nulla da vedere alla Juventus, e anzi mi sembra davanti sia pure più forte, e con una Juventus in cerottata magari qualcosa di più poteva rischiare. Vi siete fatti un'idea, la chiedo a tutte e due, nel corso dei giorni, sullo psicodramma che sta vivendo la squadra di Ruggeri? Perché non mi sei sembrato molto convinta, Marino, nel rincuorare Ruggeri. Tu mi conosci bene, mi convinco. Pochino. Un difetto della sincerità. Coccolante, rassicurante, buono nei confronti di un amico sincero, di un grandissimo artista e posso dirlo anche di un grande uomo. Sì, lui è arrivato a Sanremo con la serenità e la consapevolezza di chi dice: signori, io non devo dimostrare assolutamente niente a nessuno, perché sono modestamente Enrico Ruggeri, 10 festival alle spalle e fior di canzoni alle spalle. Sì, ovviamente chi ama l'Inter non può non essere preoccupata, perché a me che, come dire, ho frequentato l'Ippica e tu lo sai, anche la gente nella driver fa venire in mente la rottura prolungata questa. E accidenti, è incredibile come sia cominciata il giorno di Napoli questa rottura prolungata, come un episodio certamente sgradevole, certamente significativo, che in qualche modo sembrava in un primo tempo essere, fra molte virgolette naturalmente, a favore di Mancini, poi gli si è ritorto contro in una maniera non so se diretta su quello che poi è accaduto, però storicamente al momento non recuperata, non dico irrecuperabile. Questa è la tesi che sostiene Pardo. Sì, beh, sì, sì. Lo ascolto io Pardo, e lo ascolto devotamente. No, scusami, è venuto in mente, voglio fare il Bartoletti un secondo, va di moda la sincerità ma solo quando è urlata alla televisione, da Sornione di Daniele Silvestri, a proposito di Bartoletti che ha questo difetto, tra virgolette, che è troppo sincero e qui ce l'ha detto. No, io penso, la penso come lui su questo, io penso che davvero quell'episodio lì, io non so dirti se è stata la causa o la conseguenza di un nervosismo. Forse è stata la conseguenza del nervosismo, cioè probabilmente Mancini aveva i suoi problemi normali, che ci possono essere, che qualsiasi allenatore, qualsiasi uomo può avere in un certo momento, magari è un pochino meno tranquillo, un pochino meno sereno, anche per l'andamento della squadra o anche per questa famosa lite della quale si parla. Sì, dopo la partita con la Lazio, l'abbiamo ricordata ieri. Sta di fatto che quel tipo di scossone che doveva teoricamente creare dei grandissimi casini al Napoli, a Sarri, ha finito per ricompattare Sarri e ha creato invece problemi all'Inter. Poi è ovvio che in campo ci vanno i giocatori, quindi non sappiamo dire se possa esistere una correlazione tra... A me l'Inter per... Anche se Pier, io credo che anche su questo siamo d'accordo, perché mi succede spesso di essere d'accordo con le cose che dici, non c'è stato nulla di premeditato in quello che ha fatto. No, no. Ci sono state due manifestazioni spontanee. La prima è riuscita piuttosto male di Sarri, che poi invece ne è uscito con un'eleganza, una signorilità, un candore e devo dire una galantomeria che io gli ho sempre attribuito. La seconda è quello sfogo di Mancini, effettivamente spontaneo in quel momento, io non so se sarebbe morso la lingua un attimo dopo, questo non te lo so dire, fra l'altro come sai l'ho vissuto assolutamente in diretta perché ero tra le quattro persone che interloquivano con lui. L'unico errore che ha fatto sinceramente è stato quello di non accettare le scuse immediatamente, perché le scuse di un galantuomo vanno sempre accettate anche quando ha sbagliato e sbagliato di grosso, e da quel punto io ho trovato una scompostezza nei giorni successivi da parte di Roberto che evidentemente, poi bisogna vedere a che livello, si è riverberata sulla squadra, sul rendimento. Sì, aggiungiamoci anche un po' poco di fortuna dell'Inter nelle poche giornate, che forse fa il paio quel poco di fortuna che aveva avuto nelle prime. Sì, adesso attualmente l'Inter, Marino, per usare una metafora da Palio di Siena, mi sembra un po' un cavallo scosso, se posso dire la mia. Senti, non è la prima volta che un cavallo scosso vince il Palio, in questo caso vince, non la vedo dura. Propendo per la rottura prolungata. Propendi per la rottura prolungata, sì. Senti, 30 anni di Berlusconi, oggi ho letto una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport, mi conferma l'impressione che questo uomo non abbia alcuna intenzione di vendere il Milan, non abbia proprio voglia di privarsene. Io, guarda, chiede altre due finali in di Champions. La prima intervista del Berlusconi presidente, in effetti lui arrivò prima perché scriveva su un quotidiano, io scrivevo su un settimanale che era il Guerin Sportivo, sì. Quindi gliela feci prima io, ma uscì prima la sua. E di quell'intervista mi ricordo un guizzo di sincerità, a una domanda che era, beh insomma il Milan in qualche modo si riprenderà grazie anche a Lidl, ma lui mi disse per favore non mi faccia questa domanda perché dovrei darle una risposta insincera, quindi aveva già in mente qualcos'altro. Io ho provato a leggere in filigrana come vanno lette tutte le interviste di Berlusconi, soprattutto di Berlusconi ottantenne, perché non dimentichiamo che i prossimi saranno 80. Sì. Ho una profonda stima per il dirigente sportivo e anche per l'uomo, è sinceramente innamorato del Milan, però se leggi fra le righe alcuni, come dire, cedimenti ideologici, alcune nostalgie un po' troppo riverberate, sì, alcuni tentativi di essere ottimista, io penso che anche lui il giocattolo stia leggerissimamente sfuggendo di mano, cerca in tutti i modi di mettere d'accordo le ideologie di Barbara e di Galliani. Lo fa con grande affetto, anzi con grande amore nei confronti dell'una e con grande affetto nei confronti dell'altro, però capisce che forse le cose più belle potrebbero essere rimaste alle spalle, con tutti i meriti che vanno a quest'uomo per quello che ha dato non al calcio rossonero, non al calcio milanese, ma al calcio italiano. Italiano. Insomma, c'è un titolo di Sanremo anche sull'intervista di Berlusconi, della canzone di Neffa che meritava più fortuna, Sogni e nostalgia. sogna nostalgia, però chiede due finali di Champions League nei prossimi 5 anni, e questa mi sembra un po' una dichiarazione elettorale. Questa appartiene ai sogni, ma in qualche modo sfiora le nostalgie. Io credo sinceramente che 30 anni siano un tempo quasi biblico nel calcio, e credo che si debba partire dalle nostalgie e dal rispetto per un presidente che è stato oggettivamente unico, nel senso che non credo che esista nella storia del calcio italiano quantomeno una gestione così clamorosamente vincente, così clamorosamente diversa rispetto al passato. Poi sicuramente in questo momento ci sono gli errori, molti degli errori secondo me sono dovuti anche proprio a questo, alla componente di cui parlava Marino, di un rapporto sentimentale con questa squadra, con questo club, con la figlia ovviamente, con un dirigente che è come se fosse un figlio, comunque un compagno di viaggio per così tanto tempo, e questo ha provocato problemi. Ecco, io però credo che in generale i tifosi del Milan che si trovano di fronte a questa celebrazione, poi sono chiaramente liberi di tornare a criticare la squadra che va criticata in questo momento, ma possano un attimo ragionare e riflettere su ciò che è stato, che è stato questo presidente, certo. E tributargli l'omaggio che secondo me dal punto di vista del dirigente sportivo merita. Poi il resto qual è il problema, è che Berlusconi ha viziato i suoi tifosi, persino quelli ingrati, certo, che oggi come oggi non se ne rendono conto, e qualcuno che potrebbe anche non ricordare, perché c'è qualche tifoso del Milan che ha fatto in tempo ad assaporare le gioie recenti del Milan, ma non ha 30 anni, e quindi non sa neanche dall'inizio in quale situazione disperata si trovava il Milan che rilevò Berlusconi. Io mi ricordo che Milanello, che adesso è un bunker inviolabile di professionalità e anche un po' di fanatismo per quanto ne riguarda la tutela, era diventata una pizzeria, cioè ci si poteva andare a mangiare la pizza, dove adesso ovviamente entrano soltanto gli addetti ai lavori, non soltanto loro. Il Milan era retrocesso 2 volte in Serie B, il Milan era diventato un pochino lo zimbello fra le grandi, quindi non c'è soltanto il valore assoluto di quello che Berlusconi ha fatto dal punto di vista numerico, e non solo numerico, ma anche come esempio di gestione di una società, ma anche il valore algebrico, perché ha preso il Milan che era praticamente sotto zero, e dal punto di vista pratico e dal punto di vista morale. E devo dirti che quando mi capita di parlare con qualcuno che è a Mediaset da... Beh, poi Marino chiaramente l'ha vissuta questa esperienza qui, no? Qualcuno che si è interfacciato nella quotidianità del lavoro con il Berlusconi dirigente sportivo o televisivo di 20 anni fa, insomma... vedi gente che ancora ha l'adrenalina addosso di una persona che è stata dal punto di vista imprenditoriale assolutamente speciale. Devo dire che quest'anno, l'abbiamo sottolineato più volte, mi sembra che si sia iniziato un percorso un pochino più onesto, un pochino più corretto nei confronti dei tifosi, perché per tanti anni il Milan in questo tramonto delle ultime stagioni ha sbandierato obiettivi irraggiungibili, ha scelto le figurine, ha scelto il colpo d'effetto, che ha scelto altre cose, si può permettere perché ancora un'immagine di un certo tipo, e poi vediamo come, se il Milan rimarrà davvero a Berlusconi e la prossima campagna estiva come andrà. Intanto continuiamo a leggere nomi di ragazzini in procinto di passare in prima squadra, e questo mi sembra il filo rosso che può legare davvero il Milan alla passione dei suoi tifosi. Marino, un'ultima cosa in un'ultima battuta: oggi si è presentata la candidatura Olimpiadi 2024 a Roma, sì o no? Io appartengo a una generazione di ragazzini che proprio vedendo le Olimpiadi ha sognato un giorno quella che poteva essere la sua carriera professionale, cioè quelle Olimpiadi mi hanno fatto vivere emozioni talmente grandi, non soltanto dal punto di vista sportivo, non soltanto dal punto di vista umano, ma che forse hanno costruito una piccola vocazione, per cui come si fa a dire che non si tifa per queste Olimpiadi? Certo, non è più l'Italia vergine, innocente e in grado di guardare al futuro del 1960. Posso avere qualche riserva, ma non la dirò mai neanche sotto tortura, e naturalmente andrò in campo sventolando la bandiera di Roma 2. Ti conosco davvero bene. Lasciami aggiungere che, ripeto, l'ho detto prima al volo, so che rubo 20 secondi alla borsa, ma insomma se ne farà una ragione, che Berlusconi per me è stato un grandissimo editore, e finché si è occupato di editoria e soprattutto monotematicamente di squadra ha sbagliato poche cose. Sbagliava soltanto quando mi chiese di tagliarmi i baffi, ecco, io non lo feci, Gullit sì, io li ho difesi. Grazie Marino, grazie come sempre, un abbraccio. Un abbraccio a tutti. No. Grazie Marino Bertoletti, ci fermiamo per la borsa naturalmente, poi abbiamo già ascoltatore in linea e poi ci tuffiamo nella vigilia di Roma-Real Madrid. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. tutti convocati. Francini, fermato da Mitchell, la palla è per Hugo Sanchez. In profondità esce Garella, su Butragueño, gol del Real Madrid. E ancora una volta il Napoli ha commesso una leggerezza, perché il pallone avrebbe potuto essere sfruttato in una maniera diversa. Ebbene, questa è stata l'ultima volta, cioè, stagione 87-88, l'ultima volta che il Real Madrid ha fatto fuori una delle nostre squadre in Champions League. Ovviamente e sommessamente speriamo, caro Pardo, che la maledizione continui. Speriamo che la logica, che, no, che magari che tutti i fantasmi escano. Esatto, ma io penso che sia difficile, ma che non sia completamente impossibile, e non la vedo, e vedo un orizzonte in miglioramento per quanto riguarda la Roma, così come per quanto riguarda la Juve, quindi penso che si possa andare a giocarsi alla testa alta, poi vedremo. Ovviamente sarebbe una grande sorpresa se la Roma eliminasse il Real Madrid. Beh, sarebbe la più grande quest'anno, sì, cioè, però intanto stasera è una grande notte, una grande serata, tutta da vivere, il pubblico torna allo stadio, insomma, mi sembrano solo belle notizie per il momento, poi vedremo. Per il momento sì. Mario, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei, dica. Volevo innanzitutto, faccio i complimenti a Pardo, perché insomma la passione si sente, quindi Radio 24. Ascolto o lui o Giuliani, per me esiste solo questo, così sapete anche che parrocchia sono. Esatto, e volevo fare una domanda, cioè una considerazione su quello che avete detto la scorsa settimana sul Napoli, cioè che secondo voi sta nelle prime otto d'Europa, cioè sì. Secondo me è un po' esagerato. Io ne resto convinto, ma penso anche Pierluigi. Ma mi spiego, perché secondo me per stare tra le prime otto d'Europa innanzitutto bisogna esserci, no? Bisogna esserci in Champions League, bisogna esserci, però stiamo parlando di valori assoluti. Dipende, per me, insomma, adesso con un po' di proprietà transitiva, la Juve è arrivata seconda nel girone e adesso chiaramente ha bisogno anche lei di un'impresa, però per me la Juve è tra le prime otto senza alcun dubbio. E questo aggiungerebbe eventualmente frustrazione per quella maledetta notte a Siviglia. Per quanto riguarda il Napoli chiaramente gioca l'Europa League, ha dominato la prima fase a punteggio pieno, è una squadra che sta giocando alla pari con la Juve, stracciando ogni record peraltro. Mi sembra che tutte e due, che sono grosso modo sullo stesso livello fino a questo momento, siano in un gruppo, in un'elite. Poi ecco, magari il campionato inglese quest'anno è un po' più indecifrabile, perché insomma facciamo fatica ovviamente a togliere dalle 8 il Leicester, però io credo che con valore assoluto il Napoli non sia inferiore al Leicester e la Juve non sia inferiore al Leicester. Arsenal e Tottenham sono due squadre abbastanza incompiute che sono lì a due punti adesso. Sarà interessante vedere il confronto tra Fiorentina e Tottenham, potrebbe essere esempio, indirettamente certo. Un termometro di valore, no? Assolutamente. Però insomma io la vedo fra le prime otto. Posso dire una cosa? Scusa, prima c'era Marino che diceva quella cosa sulle Olimpiadi e parlava dell'innocenza, no? L'innocenza perduta nel nostro paese. È proprio quello, cioè io ti dico sinceramente, come si fa a non tifare? Come si fa a non tifare? Forse avremmo proprio bisogno come paese di recuperare un po' di quella, no, di quel candore, di quel metterci a tifare per un obiettivo comune, di quell'essere orgogliosi di riuscire a organizzare un evento e riuscire a farlo bene. Poi ovviamente le polemiche ci saranno sempre, perché ci siamo noi giornalisti, perché ci sono purtroppo gli scandali, perché ci sono purtroppo altri problemi che magari non verranno risolti nel frattempo. Però come si fa a non tifare per quella cosa lì? Ma il tifo penso lo facciamo tutti. Poi dobbiamo anche riconoscere che certe volte il tifo è cieco e qualche volta sordomuto. No, però voglio dirti, noi abbiamo in Italia giustamente un sacco di problemi e l'abitudine a pensare male, perché viviamo in un paese che ha vissuto mille scandali eccetera, e però un po' di quel candore lì secondo me potrebbe esserci utile, no? Un po' di ottimismo, di ottimismo, di voglia di partecipare a qualcosa, di sentirci parte di un paese che ha ancora la forza per poter fare delle grandi cose. Io sono stato da turista nel 92 a 18 anni alle Olimpiadi di Barcellona, che poi parlando anche negli anni successivi con tante persone spagnole, sono stati veramente i giochi della rinascita della Spagna, chiaro. Che ovviamente aveva una storia molto diversa. E da quel momento sono iniziate tantissime cose, dal punto di vista sportivo e non solo. È stata la rinascita dello sport spagnolo e poi questa rinascita dello sport spagnolo si è legata anche alla crescita economica. Poi anche lì, poi a un certo punto c'è stata la bolla immobiliare che è esplosa e sono arrivati i problemi. Però quello che voglio dire è che delle volte ci può essere il bisogno di una scintilla. Sì, e tutto sommato fidarsi un po' e tifare un po', secondo ma me no, non ma fa faccio, male. Tutti facciamo il tifo. Io invece sono stato come inviato di Radio 24 a quelle di Atene ed è stato sì, l'inizio è della stato l'inizio della fine. L'inizio della catastrofe. E quindi, insomma, lasciami essere un po' cinico e magari un po' o forse realista. Ho molta paura. Io ho molta paura, faccio il tifo, ma con grande paura, come faranno magari i tifosi della Roma questa sera. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Ah, ecco, buongiorno. Dove eri nel 92? Quanti anni avevi? 20 anni? Nel 92, no, un po' di più, di 25. Ma tu sei un finto giovane, oltre che il sosia di Rocco Tanica. No, sono del 67, quindi ho calcolato ma, giusto. Parliamo un attimo di Rocco Tanica, ma è uguale a te. Sì, però là, mi dicono anche... sì, è l'ultima scoperta, prima dicevano Ricky Mantis. Cioè, sì, anche, sì. Anche un po' Ricky Mantis. No, non c'è dubbio sul fatto che sia un sex symbol, no? Ma Ricci. Un tempo addirittura c'era chi diceva Hugh Grant, però qui adesso passa. No, no, ma allora, adesso visto che siamo su questo piano, Filippo Maria Ricci, che è soprannominato Family Man, perché è un uomo, diciamo, è uno dei più grandi, possiamo dire, inseminatori della storia. A quanti figli sei arrivato? Cioè, ha una... No, solo tre, dai. Tre, però voglio dire, tre perché si è fermato, tre perché si è fermato, ha fatto il triplet. Uno più bello dell'altro e poi è stato soprannominato anche lo sciagurato Egidio perché questo sotto tortura però insomma gli fa onore, ha avuto delle opportunità nella sua vita che però essendo un family man non ha colto e quindi il soprannome di Egidio perché legato al valore della fedeltà e quindi è un mito per tutti noi che siamo anche noi, però io almeno non ce l'ho le occasioni, capito? Quindi ti vedo come un idolo assoluto. No, mi sto vergognando, dai. No, ma è tutto vero, è tutto sono vero. Finito poi alla fine. Sì. Di Roma Nord. Sai che a Roma c'è adesso un partito perché vuole fare l'indipendenza di Roma Nord, una città straordinaria, L'indipendenza di Roma Nord. Di Roma, l'hai postato tu il rosico. Sì, sì, no? il rosico, il risico di Roma. Vabbè, ma questo adesso è un momento veramente qui stiamo andando su una deriva per rischiosa. Per tornare a quello che dicevate prima. Tifi per le Olimpiadi. Assolutamente. Bisogna risollevarsi e avere degli obiettivi comuni che non siano legati solo al proprio paesello, alla propria campana. Roma in quanto capitale sarebbe bella avere i giochi, sarà dura, molto complicato, però come i francesi lottano per Parigi, magari a metà della Francia i parigini non li sopporteranno, però si lotta per un obiettivo comune che fa bene al paese, fa bene al movimento. Hai visto l'Expo, no? Anche nell'Expo sicuramente ci sono stati scandali, cose che non erano pronte, lo sappiamo benissimo che non è stata il mulino bianco che qualcuno ci ha descritto, però no, alla fine, però anche se non è stato un mulino bianco, è andata bene. L'Olimpiade è un'altra cosa, Pierino, l'Olimpiade è un'altra cosa. Sì, certo. Però l'Olimpiade di Torino... Dura pure meno, Sì. Certamente dura pure meno, ma Torino, per esempio, hai fatto un bellissimo esempio. Magari se ne parla poco, ma Torino, i miei amici torinesi mi dicono tutti: e basta andarci per vedere che Torino, dopo le Olimpiadi, ha avuto un. È rifiorita, certo. Per cui, forse se in questa Torino post-olimpica la famiglia Zidane sarebbe meglio, no? Che non erano contenti, ma non hanno hanno messo il mare, non è che con le Olimpiadi è arrivato il mare a Torino, però te la signora Zidane neanche a Madrid fa niente, ma a Madrid ci sono altre cose che alla signora Zidane sono sempre piaciute. Fermiamoci un attimo per il traffico e poi sentiamo Cristiano Ronaldo, commentiamo Cristiano Ronaldo furioso ieri e diamo un'occhiata dal buco della serratura a questo Roma Real. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Tutti convocati. Sta costando un poco más de trabajo marcar fuera. Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. Sì, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato. No, grazie. E Cristiano Ronaldo furioso si alza e se ne va quando gli fanno notare. Però fuori casa non la domanda del collega di AS, la domanda di Marco Russo, era pertinente, perché io ieri stavo, mentre lui parlava, stavo esattamente scrivendo su questa cosa e controllando, voglio dire, ha fatto gol in 5 partite su 14 fuori casa. A livello giornalistico la domanda ci sta, che poi lui dica che probabilmente è vero che nessuno da quando lui è arrivato qui ha segnato tanto in trasferta, bisognerebbe controllare con Messi, cosa che non ho fatto, ma insomma saremo lì. Però quest'anno le cose non vanno così bene in trasferta, perché uno che segna praticamente ogni partita, se ha fatto gol in 5 partite su 14, le altre 9 no. E questo è Ronaldo quest'anno, ha fatto 32 gol, uno dice, cavolo, 32 gol in 30 partite, però in 15 non ha segnato. E se segna ne fa 3 o 4 e poi se no non segna. Questo è il Ronaldo versione 15-16. Mm. E soprattutto poi non aveva fino l'altro giorno ha fatto gol all'Athletic Bilbao, è la prima squadra diciamo di Liga che gioca in Europa a cui segna, sì. Cioè, non ha fatto gol al Barcellona, all'Atletico ed è anche il Bilbao, con tutto rispetto, insomma, no? Vabbè, cioè... però comunque attenzione che l'Atletic il primo tempo li ha messi sotto, poi sono andati a riposo 3-1, certo. Però dico, non segna nelle partite importanti. In Europa, no? Dici, ha fatto il record nel girone, 11 gol. Sì, però li ha fatti in affatti 6 al Malmo e 5 allo Shakhtar. Colpa di Saint Germain, 0 gol. Vediamo stasera se considerano la Roma una grande squadra, non dovrebbe segnare. Se la considerano una piccola squadra, gliene fa 4. Ed è quello che tu dici. Più vicina allo Shakhtar o al Paris Saint Germain. Esatto. Sì, guarda che questo alla fine. Questo è il tema. Questo è il tema. Esatto, è il tema. È il test di stasera per la Roma. La Roma può finire malissimo o uscire in maniera molto brillante da questa serata, come era uscita bene dalla partita col Barça all'andata. Ma al di là dei numeri, io credo che questo modo di stuzzicarlo non faccia altro che aumentare la carica di Cristiano Ronaldo per la partita di questa sera. Non voglio essere anche qui pessimista, potrebbe davvero cercare il gol e poi mettere la mano davanti alla bocca, il dito davanti alla bocca. Allora, basti dire una cosa, Ronaldo non veniva in conferenza stampa prima, diciamo così, per una partita di Champions da più di 2 anni, mi sembra, ottobre 2013 se non sbaglio, quindi vuol dire che ci tengono particolarmente, se l'hanno mandato, anche perché poi lo sanno che lui parla, a me piace Ronaldo per questo, perché comunque Ronaldo è uno che dice le cose, e noi ci lamentiamo come giornalisti, le conferenze stampa inutili, ieri c'era un sacco di roba, perché anche quando lui racconta che non si parlava, no? Noi siamo ronaldiani, io Genta, lo sai, siamo per Ronaldo. Come personaggio. No, è giusto, no? È interessante. Lui ha le sue idee e non ha paura di dirlo. Le sue idee anche su un'altra cosa che voglio far sentire, su quei rigori di cui abbiamo parlato molto, di tra Messi e Suarez, Ronaldo. Quería preguntarte por la jugada de la semana, la jugada de Messi del penalti con Luis Suárez. Se ha dicho incluso que si la llega a hacer Cristiano habría generado más polémica. Quería saber tu opinión de la jugada y si a ti te gustaría hacerla o no, si te gustó la jugada. Te voy a ser muy preciso y corto. Yo sé por qué Leo ha hecho eso y más no te digo. Yo so perché l'ha fatto, ma non te lo dico. Allora, ovviamente qui... dietro ha scatenato una ridda di ipotesi, le cose, per me è una emerita sciocchezza. Questo mi dispiace che Ronaldo pensi questo. Qual è la dietrologia? Scusa, diciamolo a tutti, Filippo. Che lui ha fatto segnare Suarez, perché Suarez lotta per la classifica cannonieri e la scarpa d'oro contro Ronaldo. E beh, non può fargli tirare il rigore. Esatto, appunto, è quello che si dice qua, perché bastava che tirasse il rigore e siamo a posto, no? Per cui io, questa teoria mi sembra assolutamente patetica. E tra l'altro è stata smentita da Neymar in maniera, devo dire, anche lì, vedi, i grandi campioni poi sono anche... Neymar è uscito in zona mista l'altra sera e ha raccontato come era andata. E poi la cosa è stata anche comprovata dalle immagini di Quattro, una delle televisioni spagnole, no? Quando gli danno rigore... Neymar si avvicina a Messi, lo abbraccia e gli dice lo facciamo, dopo si vede il labiale, no? E lo facciamo, che era questa. Però poi c'è un problema, che Messi non guarda indietro, calcia il pallone e Neymar è lontanissimo, ci sono delle immagini girate dagli spalti che si vede che Neymar comincia a correre come un pazzo. Esatto, però Suarez è più vicino, poi Suarez è uno pronto, Ha visto quel pallone lì, si è avventato. Probabilmente Suarez ha anche sentito, non so, un coniglio o qualcosa. Diciamo, ha morso quel pallone, diciamo. Esatto, lo rincorre e lo calcia. Qualsiasi cosa che si muove, più o meno, no? Se vede saltare, magari un bambino, uguale. Sentiamo l'ultima frecciata. Morto, sentiamo l'ultima frecciata di Ronaldo ai suoi amichetti del Barça. Guarda, se vosotros lo dicen, che quieres che ti dica? È lo che lees o lo che ti dicen? Sabes che sei così? Perché lees? O escribes. Por ejemplo, te voy a contar una situación. Por ejemplo, en Manchester, yo estaba en Manchester, ganamos la Champions. Yo no hablaba con Paul Scholes, con Giggs y con Ferdinand. Y llegábamos dentro de campo y teníamos un equipo estupenda. Hablábamos, pero lo normal, buenos días y tal. Eso para mí no quiere decir nada. Yo no tengo que cenar con Benzema o Bell que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante. Lo más importante es dentro de campo. Sermos compañeros. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que jugamos. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos, eso para mí no cuenta para nada. Lo que es importante dentro del campo es hacer que el equipo gane. Grande, qua, questa non è male. Ma poi Sì. L'accento portoghese è meraviglioso. Sì. Poi di Madeira, attenzione, portoghese. Di Madeira, sì. Amicizia, Messi, Neymar. Io qui sono d'accordo, però diciamo, io come la, diciamo, se Suarez, come la vedo io, il trio di Barcellona sono anche amici fuori dal campo, finché dura, perché poi magari litigheranno. Però in questo momento effettivamente il rapporto è molto buono ed è una cosa in più. Però si vince... anche odiandosi, non so, penso sì, qua hanno fatto un grande documentario sulla Lazio del 74, ecco. No? La Lazio del 74 è la storia più bella e più letteraria. Famoso esatto. Libro di Ghicchi a Paventi che magari trovate in qualche libreria dello sport se siete andateci, perché no. È bellissimo. Ha vinto due scudetti, uno l'ha vinto odiandosi, allora però se si vogliono bene, se stanno bene insieme, è un qualcosa in più. Ci sono tante squadre dove. Mentre lui dice a Manchester io, Ferdinand e altri, manco ci salutavamo. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. Poi andavamo in campo e eravamo una grande squadra. Così, ieri ha visto anche Ferdinand gli ha risposto perché dice che lo stuzzicavano per come si vestiva. ha detto Ferdinand, allora lui gli dava fastidio, rosicava e quindi non li salutava. Ci può stare perché. Il giovane Ronaldo non è che proprio fosse un esempio di non era un esempio di grande un arbiter eleganziarum, no. Vabbè, pronostico al volo, dai, prima di salutarvi. 0-0, dai. 0-0. Sì, mi hai fregato un po', 0-0. Ah, 0-0. Sì, dai, bellissimo, sarebbe bellissimo. Quindi per Magath non vale neanche manco un punto, secondo Felice. Ah, esatto, vabbè, Magath, ragazzi, dai. Ciao Filippo. Ciao Filippo. Ciao ragazzi. Ciao, corri a fare le prove, che domani sera maggioranza assoluta, sì. Maggioranza sì. Assoluta. 22 No, 23:30 in diretta, il primo talk show, game show, statemi vicini, non so se sono capace. Ma domani mi racconti qualcosa? Domani ti racconto, assolutamente, no, ma è divertente perché è qualcosa che confina con lo sport ma che è applicato all'attualità, dai, domani ne parliamo. Va bene. Statemi vicini soprattutto. Ma hai mai visto gli ascolti di Radio 24? È giunta voce? è giunta voce, abbastanza. Record su record. Record su record nel secondo trimestre, anzi ringrazio tutti gli ascoltatori, ringraziamo pubblicamente, ci genuflettiamo davanti a tutti gli ascoltatori che ci hanno dato i risultati mostruosi. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Subito ascoltatori, 800240024, Giulio buongiorno. Buongiorno, sono Giulio da Bari, Sponda Atletico Madrid. Ah, Sponda, sì, ci conosciamo. Sì, io credo che la Roma debba avere qualche chance stasera, perché il Real dietro concede parecchio. Certo, la Roma con Rudiger al centro della difesa concede altrettanto, però io infatti punterei su un 1-1, su un pareggiotto. Sì. Che non sarebbe, però, che sarebbe un eccellente risultato. Ottimo. Io però purtroppo da tifoso dell'Atletico in attesa di volare in Doven la prossima settimana sono molto preoccupato per il possibile addio di Simeone, che a quanto pare sia potrebbe essere il prescelto del Chelsea. Sì, ahimè, in sostituzione di Allegri, che pare non sia stato mai contattato, visto che Simeone è stato allertato già da dicembre, però... Ma l'Atletico Madrid sta facendo un'altra eccellente stagione. La mia sensazione da lontano, la sua è molto più ravvicinata, è che si possa arrivare alla fine di un ciclo. totalmente d'accordo con lei per due motivi. Uno, perché Simeone per l'ennesimo anno sta facendo le nozze con i fichi secchi, visto che è una squadra senza un centravanti, perché Torres è un buon ex centravanti. E poi Martinez non l'ha mai visto. Martinez per fortuna si è arrivato una grande bufala, salvo poi costringere Mendes a ricollocarlo in Cina all'ultimo sospiro di mercato, avendo chiuso per Falcao, il quale però poverino non ha superato le visite mediche con un approfondimento al ginocchio, quindi siamo rimasti, ahimè, orfani di un vero centravanti. Col cerino in mano, sì. Sì, comunque sono d'accordo, cioè a me sembra una squadra meravigliosa, ma che verrà rifondata, l'importante è farlo con l'allenatore giusto e con Granu Salis e con pazienza. Grazie Giulio. Mauro, buongiorno. Buongiorno e complimenti a Pardo e Genta, siete forti come la Juve, quasi. Sì, quasi. E vorrei ritornare sul rigore Messi, se ne ha parlato già anche troppo e fate bene a giudicarlo così, insomma, secondo me una pagliacciata è stata, che non rispetti l'avversario. E una piccola nota tecnica, se mi permettete. In sostanza, tirando un rigore così si riduce lo specchio della porta, quindi viene meno, cioè è più difficile far gol, tutto qui. Insomma su un giocatore come Suarez, anzitutto prende di sorpresa il portiere che non ha scampo, poi quando la palla capita sul piede di un killer vero come Suarez, c'è poco da fare in quei casi. No, a me è sembrato, al di là del gesto tecnico, a me è sembrato uno sberleffo, una presa in giro, e per questo non mi è piaciuto. Il Celta Vigo ha abbozzato, non se la sono presa più di tanto, però insomma, magari fossero stati altri avversari, poi fallo sullo 0-0 in una partita importante e ne discutiamo. Sul 3-0 con il 7 che poi ne ha presi 6 alla fine, mi è sembrata una presa in giro non necessaria. Facciamo così, cambiamo argomento. Ci sono tre grandi momenti, secondo me, del Milan, dell'epopea di Silvio Berlusconi. Il Milan di Sacchi, che fa per due volte, io continuo a pensare, io guardo ai trofei internazionali perché sono quelli che tutto il mondo ricorda. Quindi ci sono le due Champions League di Arrigo, 89-90, ricordiamo che da allora più nessuno ha vinto due Coppe dei Campioni consecutivamente e sono passati secoli. Ebbe un grande coraggio, innanzitutto, come possono avere solo le persone che hanno dei intelligenti, con grande convinzione, con grande carisma. Berlusconi ha dato veramente in un mondo stantio un impulso frenetico, tanto che in quegli anni, per una decina di anni, 10-12 anni, il calcio italiano ha vissuto un vero rinascimento calcistico. Poi arriva il grande periodo di Fabio, dove facciamo tre finali, 93, 94, 95. La partita del secolo del 94. Una la vinciamo, due le perdiamo, ma sono tre finali incredibili dietro l'altra. Fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan, 4-0, ed ecco il momento della consegna della Coppa dei Campioni al capitano di questa sera, Mauro Tassotti, e sale altissimo l'applauso dei sostenitori del Milan, ma bisogna dire che anche i tifosi del Barcellona applaudono. E poi arriva l'altro grande periodo, quindi un grande periodo nell'89-90, 93-95, e poi arriva il 2003-2007. Ci rendiamo conto di quello che è successo, di quello che ci è capitato, ma ce ne renderemo conto molto presto. Abbiamo un'occasione per poter festeggiare, per renderci conto che sabato sera è molto stimolante. Tre momenti incredibili con tre grandissimi allenatori. E io non so chi più capiterà una cosa di questo genere qui. Stefano Raino, tu sei stato uno dei protagonisti di questa storia. Ciao. Ciao, buona giornata a tutti. Sì. Ricordo volentieri quel periodo 92-97 dove ho fatto parte di forse la squadra più forte in assoluto, anche perché Berlusconi aveva investito tanto e quando faceva la campagna acquisti cercava i più bravi di ogni squadra, ecco, un po' sì, per indebolire l'avversario e nello stesso tempo rinforzare la compagine. Perciò penso che, come ha detto Gagliani, sarà difficile arrivare a quello, perché è stato costruito un qualcosa che l'ultimo periodo è stato quello di Ancelotti, sempre favoloso, che diventa difficile poi pensare se potrà accadere ancora, ecco. Senti Stefano, c'è un ricordo personale che hai con Berlusconi? Adesso vorrei evitare i toni elegiaci, però onestamente è stato un enorme presidente del nostro calcio. Ma devo dire che veramente era la persona, l'uomo in più, ecco, non per fare retorico o meno, era veramente una persona di grande carisma che ti dava la possibilità di rendere al massimo, anche perché quando veniva a Milanello vedevi proprio che era uno che stimolava, che caricava il gruppo. È normale che poi i risultati sono quelli che poi ti facevano stare bene, no? Però era tutto l'insieme, anche perché lui era molto presente vicino alla squadra, dei piccoli problemi, anche se in quel periodo ce n'erano pochi, però era sempre presente e cercava di risolvere al meglio tutto, ecco. Perciò devo dire persona splendida, ecco, che la ricordo con grande affetto. Tutti dicono che questo è stato uno dei grandi segreti del Milan, poi si può traslare anche ai tempi attuali, cioè i presidenti assenti, però la presenza di Berlusconi soprattutto nei momenti difficili era costante, è sempre stata costante, ma lo è ancora. Poi normale, poi parliamo che c'era comunque Gagliani, c'era Braida, c'erano persone che adesso, per esempio, il fatto che non ci sia Braida, era una persona comunque sempre presente, vicino alla squadra, un conoscitore di calcio, perciò era veramente il club era formato di una squadra in tutti i suoi componenti forte, e in più c'era la voglia anche di investire, perché c'erano altre forze anche finanziarie dove comunque ti permettevano di essere, soprattutto per le vittorie ottenute e avere anche un portafoglio importante, tutti i giocatori volevano venire al Milan se c'era l'opportunità, se c'era una chiamata, perciò avevi anche un vantaggio su quello. Molti milanisti staranno pensando erano altri tempi. Senti, le tue sfide con Real come sono state? Ma guarda, io con Real, cioè giocarmi qualcosa di importante, non l'ho giocato proprio perché non facevo parte del Milan che vinse la Coppa Campioni sul 5-0 al Milan. Io arrivai al Milan nel 92, perciò non ho mai incrociato il Real Madrid nel mio cammino in Coppa, eravamo sempre distanti, e in quel periodo lì era un po' in disgrazia, tra virgolette, cioè il Real Madrid non era quello che è adesso e quello che è stato, e poi il Barcellona invece, che è stato quello in finale, incontrato all'inizio dell'anno in un torneo, mi ricordo, in Spagna, ad Oviedo, dove avevamo fatto 4 gol, avevamo dato 4 gol già in quel torneo lì, poi si è ripetuta la stessa partita dove, pur mancando elementi importanti, siamo stati all'altezza della situazione. Sì, grazie anche alla sbruffoneria di Cruyff che annunciò a tutto il mondo: non ci sarà gara, questi li asfaltiamo con i nostri attaccanti. Invece andò in una maniera diversa, ma sai, Cruyff è sempre stato un po' meravigliosamente sbruffone. Io ho un'adorazione viscerale per Cruyff, compreso quel rigore che Messi e Suarez hanno ripetuto in maniera beffarda e secondo me inutile. Comunque, questo Milan è tutt'altro che Real, ma funziona abbastanza bene, con le armi dei poveri. Magari a Berlusconi non piacerà più di tanto, però per Mihajlovic ha messo in ordine una squadra con poco talento e poca personalità, la squadra ha cominciato a fare risultato. Beh, devo dire che è stata fatta comunque una campagna acquisti dispendiosa, ma adesso pian pianino sta dando un po' i suoi frutti, perché il Bacca sta facendo gol, Zagnoli di spesi 25 milioni, però era il pezzo in giro, il pezzo un giocatore importante, un difensore dove difficilmente adesso si trovano in giro, e perciò diventa veramente difficile, diventa veramente difficile trovare giocatori difensori bravi in giro. Perciò devo dire che sta facendo un ottimo lavoro, grazie anche comunque a giocatori come Bonaventura, che secondo me è il fiore all'occhiello in questo momento di questa squadra, certo. E aver ritrovato un Niang, che anche lui giovane, che ha delle grosse potenzialità. Perciò sta costruendo pian pianino a suon di risultati, perché poi il risultato è fondamentale per credere in loro stessi, per l'autostima, e sono convinto che pian pianino potrebbero veramente risalire alla china come sta facendo. Ma sai qual è, secondo me, Stefano, per finire, cioè Berlusconi dice voglio altre due finali di Champions nei prossimi 5 anni, queste a me sembrano un po' le classiche dichiarazioni elettorali, no? Perché Milan mi sembra molto distante da quel livello. Però se c'è un punto su cui, al di là dei risultati contingenti, su cui i tifosi rossoneri possono essere soddisfatti, è che davvero si intravede una linea nuova per quanto riguarda i giovani. Abbiamo ovviamente Donnarumma, ma poi abbiamo intravisto Calabria, adesso si parla di un possibile innesto di Locatelli, 18enne. Il settore giovanile, che da qualche anno sta lavorando in maniera splendida, e lo sappiamo, in maniera serissima, è tornato a lavorare in maniera molto profonda, ebbene i frutti stanno uscendo di lì. Aggiungi Romagnoli, aggiungi De Sciglio stesso, aggiungi Niang, aggiungi quelli che sono arrivati da altre parti, alla fine il Milan si troverà tra le mani una squadra molto giovane. No, anche perché poi non contiamo che c'è tanta gente in giro, c'è Petagna, c'è Pinato, Ganze, che adesso l'hanno venduto inspiegabilmente, perché anche Simone Ganze è un giocatore che aveva le sue qualità, però purtroppo il problema del Milan è sempre stato quello di prendere il giocatore affermato a tutti i costi per il peso di questa società, ma ricordiamoci che il Milan storico, i Baresi, i Maldini, Riccardi, Devani, Incocciati, cioè hanno fatto la storia comunque del Milan, e sono prodotti del settore giovanile, dove hanno comunque dato l'opportunità al Milan di avere un'ossatura importante, chiaro, che è venuta fuori dal settore giovanile. Perciò io sposerei realmente questa strada, anche perché è quella che poi alla lunga ti dà i frutti migliori. D'accordo con te, Stefano, grazie. No, grazie a voi. Ciao Stefano Eranio, grazie davvero. Ascoltatori, 800 24 0024, Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un tifoso milanista. Volevo intervenire per spezzare una lancia a favore, penso, alla luce dei fatti di oggi, della dirigenza rossonera. Spezziamo tutto quello che vuole. Allora, si è parlato quest'estate del mancato acquisto di Jackson Martini. Ma meno male. Appunto, botta di culo, se mi consente il francesismo. Volevo capire adesso se può essere stata un'intuizione della dirigenza che tutti hanno contestato in quel momento, o è stata una semplice botta di culo. Io sarei per la seconda che ha detto, perché Jackson Martinez lo volevano, così come volevano con Ndombia, e con quei due giocatori si sarebbero bruciati l'80% del budget del mercato, perché la prima scelta certo non era Bacca, ma era la riserva di Bacca nella nazionale colombiana, cioè quel signore che adesso, per una valanga di soldi, dopo aver fallito all'Atletico Madrid, è stato spedito ai margini dell'impero in Cina. E quindi spezziamo quello che vuole, ma la verità è questa. Tanto leggo una dichiarazione di Sosa, di Paolo Sosa, che fa il malizioso. Come sapete, due turni di squalifica con Ndombia dopo la partita di Firenze, tre turni a Zarate. E Sosa dichiara: tre turni a Zarate? Beh, è ovvio, abbiamo la Roma. Silvano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo prendere il discorso delle Olimpiadi a Roma. Volentieri. Adesso poi le faccio sentire anche qualche voce. No, perché, come dire, è ritornato in ballo Bertolaso, no? che nell'89 per il mondiale di nuoto ha fatto un sacco di risate e un sacco di debiti, e che li paga il popolino, no? E non è che sia migliorata tanto a Roma, no? Anzi, è andato verso lo sfacello. E col rientro di Bertolaso e gli Olimpiadi a Roma ci ricarichiamo, come dire, magari un aumento di tasse un po' per tutti per finanziare tutta questa spesa. Quindi lei è contrario? No, no, ma non per gli Olimpiadi, per i personaggi che li gestiscono. Ho capito, però lei è favorevole o contrario ad un Olimpiadi a Roma il 2024? Cioè fa il tifo o no? Ma io diciamo, a cambiare tutti quelli che ci sono, i personaggi, gli addetti ai lavori, ci potrebbe anche stare. Perché visto quelli di Torino, che le Olimpiadi invernali, basta chiedere ai torinesi, no? che hanno pochi servizi e tante tasse da pagare, no? Per aver finanziato, per pagare le spese di quelle Olimpiadi, si rende conto che siamo già messi poco bene, economicamente, ecco. C'è un ascoltatore che a proposito di Torino ha scritto: ma lo sapete che il TOROC, il Comitato Olimpico Torinese, è andato avanti anni dopo la fine dell'evento? C'è ben poco da tifare. Io noto che insomma il tifo va bene, che però gli italiani sono un po' perplessi e preoccupati, lo leggo dai messaggi, ma si comprende, si capisce anche dall'umore dell'opinione pubblica, ed è inutile far finta di no. Poi è chiaro che nel paese dei sogni sarebbe meraviglioso avere le Olimpiadi a Roma nel 2024. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha sentito le parole di Malagò, ha sentito in diretta, direttamente dal luogo, le parole di Montezemolo, che vi ripropongo in un istante, e poi ci dà un suo giudizio. Montezemolo. Stanno lavorando a un progetto che è prima di tutto una sfida per la città. Io nel mio mestiere mi sono sempre trovato a confrontarmi con dei competitors, con degli avversari, nella competizione. Noi abbiamo delle città e dei paesi che vogliono le Olimpiadi. Los Angeles e gli Stati Uniti, Budapest e l'Ungheria, Parigi e la Francia. Bene, credo che il nostro paese, la nostra città, abbia la forza, abbia la storia, abbia la cultura, abbia la tecnologia e abbia la voglia di accettare e di vincere una sfida. Guai a non accettare le sfide, perché noi vogliamo che le Olimpiadi del 24 rappresentino la più grande festa dello sport mai organizzata, in termini di qualità di impianti, in termini di attenzione agli atleti, in termini di capacità organizzativa, in termini di raggiungimento dei risultati rispetto al budget previsto. Van bene le sfide, a meno che non siano più grandi di noi. Direttore Zappelloni, ciao. Sì, ciao caro, ciao a tutti gli ascoltatori. Ma non credo che la sfida sia molto più grande di noi. Poteva sembrare grande anche la sfida dell'Expo per il nostro paese, per Milano. Mi sembra che quella sfida sia stata vinta, almeno dal punto di vista dell'immagine. Non so poi sui conti, che ancora dobbiamo vedere in profondità. Roma ha presentato un'idea olimpica low cost, perché non si parla di cifre astronomiche per organizzare l'Olimpiade, si parla anche di riutilizzare il 70% di impianti che già esistono e che hanno solo bisogno di essere ritoccati. È una sfida che ci sta, è una sfida che possiamo sognare di vincere, anche se la concorrenza di Parigi soprattutto, e magari anche di Los Angeles, sono concorrenze importanti da non sottovalutare. Il piano presentato questa mattina sembra un piano intelligente, un piano anche fattibile, che non insegue un sogno, cioè insegue il sogno olimpico, ma lo insegue con concretezza, perché non si parla di impianti avveniristici che poi non servirebbero più a nulla. Certo. Si parla di qualcosa che potrebbe restare e far comodo alla città anche dopo le Olimpiadi. Quindi questo lascia in un certo senso ben sperare rispetto a quelle che erano state gli ultimi tentativi olimpici di Roma, che come sappiamo non approdarono a nulla. Per cui la possibilità c'è, però sappiamo anche che, come lo ha detto, come ha specificato stamattina Malagò, che un dossier ben fatto non serve poi a nulla. Un dossier mal fatto ti può magari togliere dei voti, un dossier ben fatto ti fa partire alla pari con gli avversari. Certo. Poi adesso ci sarà un grande lavoro diplomatico, un grande lavoro dietro le quinte per cercare di convincere i membri a votare, a scegliere Roma piuttosto che Parigi o Los Angeles. Certo, però, però poi capisci bene questo strisciante sentimento di preoccupazione che c'è in molti. È comprensibile, ma è da accettare e da rispettare. Abitando noi a Milano sappiamo che fino al 30 aprile dell'anno scorso in molti pensavano che l'Expo non sarebbe mai partito. Invece il nostro paese ha dimostrato di potercela fare e credo che anche questa volta ce la possa fare. Però lo scetticismo c'è perché troppe volte abbiamo visto dietro anche all'organizzazione di non soltanto manifestazioni sportive, troppo malaffare. Roma Capitale è ancora negli occhi e nelle orecchie di tutto, per cui per fortuna qui alla base del Comitato Olimpico ci sono anche dei controllori che controlleranno che tutto vada in un certo modo, perché purtroppo è vero, siamo italiani, portiamo passione, portiamo fantasia, portiamo concretezza, ma spesso abbiamo anche un altro vizietto, quello insomma di far seguire al grande avvenimento anche uno sperpero di denari che vanno a finire in tasche non proprio fisicate. Esatto, quindi insomma che ci sia un po' di scetticismo è comprensibile. È comprensibile ed è un sentimento da rispettare, a mio parere. Assolutamente, ma anche secondo quanto hai detto tu. Grazie, direttore. Buon pomeriggio, caro. Grazie, Umberto Zappelloni. Chiudiamo qui. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Oggi Claudia Schiattone Mitica in redazione. Ci sentiamo domani, ragazzi, alle 2, tutti qui. Signori, alla prossima.